Capita nella grande città, per lo più di sera, di imbattersi in cose disparate, ammucchiate nei pressi di un portone, abbandonate a se stesse in attesa del mattino successivo, allorché qualcuno le dovrà portare via. Capita anche che presto, messi sull'avviso da qualche segnale segreto o piuttosto per caso, fra queste cose rifiutate rovistino persone curiose, in cerca di qualcosa che potrebbe tornargli utile, così che il mucchio l'indomani mattina, risulta ridotto al lumicino. Anna, una sera di quest'inverno, passeggiando con Papere, era arrivata tardi, quando molto era già stato portato via e quando i rovistatori stavano per dividersi le ultime cose utili, mobilia, libri, intere raccolte di riviste, una sedia, giornali, qualche oggettino. La sua attenzione fu attratta da una consunta cassettina in legno che, a quanto pareva, proprio non voleva nessuno. Le piaceva, visto che i rovistatori la guardavano con superiorità mista ad un'alterigia quasi professionale, se la prese sotto braccio e se la portò a casa. Quando arrivai io, la trovai alle prese con il suo tesoro. Dentro la cassettina ci aveva trovato delle lettere scritte a mano molti anni fa e delle cartoline. Con la lente e tutte le cautele eccitati dal fascino della scoperta, procedemmo all'analisi. Evidentemente si trattava di un lotto di corrispondenza, no? Tutto racchiuso nell'arco di un paio di anni, datato molti anni fa, almeno una settantina d'anni fa. Era tutto indirizzato alla medesima persona. Cartoline di amici, informazioni a carattere professionale, soprattutto intorno agli sviluppi di certi settori della tecnologia e in gran parte lunghe lettere di sua madre sulla vita in famiglia, sulla salute dei parenti, sui piccoli eventi quotidiani, sulla nostalgia causata dalla lontananza. Man mano che si riusciva a decifrare e a ordinare gli scritti, ad incasellare parole, fatti e persone in un periodo storico e in ambienti di cui pur qualcosa sappiamo, beh, emergeva la figura di questo destinatario, che ad un dato punto, ormai dotato di un nome, di un cognome, osando, eccolo anche, trovato citato in breve in un'enciclopedia. Avevamo messo le mani su carte, insomma, che in una fondazione, in un piccolo museo della scienza e della tecnica a disposizione degli studiosi non avrebbero sfigurato. Con una certa emozione, poi vi trovai una cartolina scritta da una persona che casualmente ebbi l'avventura di conoscere personalmente, e dunque da queste carte ingiallite e polverose mi sembrò di ricavare i fili di una trama che cominciava ad appartenermi in una qualche misura, come se vi fossi coinvolto. E tuttavia, ecco, tuttavia qualcuno che presumibilmente era ben più vicino di me a queste cose e a queste persone, tuttavia qualcuno le aveva buttate via. L'altro giorno ho aiutato Anna a ripulire il suo solaio. È stata una battaglia. Non dico della polvere o della quantità di cose che in un solaio si vengono a trovare con le quali in un modo o nell'altro occorre fare i conti. Dico che è stata una battaglia perché in pratica ogni cosa, ogni oggetto che improvvisamente veniva staccato faticosamente dall'accozzaglia, ogni cosa poneva un problema. Di memoria, di storia individuale e collettiva, di affetti e di valori sui quali valgono, diciamo, le pene di una vita intera. Allora, fra Anna e me, mentre si sudava, si mangiava polvere, si stava attenti a non farci male nello spostare ciò che si voleva spostare, ferveva esplicito ed implicito il dibattito ideologico, con i due punti di vista del caso. Io, attaccato a tutto, invischiato nello statu quo, anche su cose non mie, guardiano delle memorie altrui, che non so buttare via niente. Lei che sa privarsi di che sia, trepida e lesta nel cambiamento, abile e drastica anche in cesure nette, proiettata in avanti, che farebbe piazza pulita senza battere ciglia. Questo lo butto? No, dico, come lo butti? Questo lo stai scherzando, non lo butti affatto. Lo buttiamo, lo mettiamo per bene, lo puliamo un attimo, lo portiamo giù, è bellissimo. No, questo lo butto, dammi qua, non puoi farmi questo, e così via. Ogni oggetto ha dunque meritato la mia arringa difensiva ed un contraddittorio appassionato. Un cartello di divieto di sosta, rubato ai vigili urbani, tre bottiglie di birra con il tappo in porcellana bianca, una brocca provenzale appena scheggiata, sei sottopiatti in legno e alcune scatole metalliche per biscotti. Beh, sono riuscito a salvarle con la stessa soddisfazione che avrei provato se avessi tolto dalle grinfie del boia un condannato a morte. È inutile dire che con Anna le sconfitte sono state più delle vittorie, ma qualcosa ho salvato, no? E il piacere di certi racconti che scaturivano dall'intrecciarsi dell'istruttoria mi ha ampiamente ripagato delle delusioni patite. Ripulito, messo in ordine e ricreatovi il nuovo spazio, il solaio è dunque risultato pronto per ospitare qualcosa di nuovo. Qualcosa che dall'abitazione vera e propria, venendone meno il senso, poteva essere preso e portato su, in quel lungo purgatorio che in definitiva è un solaio. Anna aveva pronto un tavolino, un enorme sacco con bambole ed orsacchiotti, un paio di quadri e, ahimè, pronto per il solaio, la cassettina in legno che aveva trovato mesi or sono e che in pratica, esaurita l'aura della sua novità, tornava in un solaio, luogo dove presumibilmente aveva soggiornato negli ultimi 50 anni. Per certi versi è anche come se avessimo acquisito un anziano parente. Non è nostro, è vero, e chi troverà in un prossimo futuro questa cassettina con i suoi documenti sarà tratto in inganno. Si potrà chiedere cosa mai c'entrassero quelle storie con le nostre storie e non ne verrà mai a capo. Ma per noi, è un po' come se avessimo salvato una vita. Sul finire della propria vita, il biologo francese Henri Laborie raccolse alcuni suoi ricordi, alcune sue riflessioni in un libro che volle intitolare Lo spirito del solaio. Perché si ricordava del fascino che aveva avuto per la sua fanciullezza il solaio di un suo vecchio zio. Era vero che lassù venivano conservate soltanto cose che non potevano più servire a nulla, ma era anche vero che ognuno di quegli oggetti era stato, prima, il risultato di un processo di immaginazione e poi di una manifattura e comunque, una volta fuori uso, ogni oggetto conteneva ancora tutta la semantica, dice Laborie, di un poema scritto dall'artigiano nella materia. Quel luogo per Laborie era l'equivalente di un museo senza visitatori, un museo chiuso al pubblico e, aggiungo io, aperto al privato, un privato con cui a volte, troppe volte, si evita di confrontarsi. Al solaio di Anna si accede tramite un lindo corridoio dove si affacciano i solai dell'intero condominio. Tranne quello di Anna, tutte le porte hanno una duplice caratteristica: pesanti, pesantissimi lucchettoni a chiudere i chiavistelli e nel vano superiore una corta tendina a spegnere ogni visione sull'interno. La mentalità dominante vorrebbe che le care memorie lassù isolate siano garantite contro i malintenzionati e che l'occhio sia il prodromo della mano. Ma l'altro giorno abbiamo voluto dare una sbirciatina e, scostate di pochi centimetri un paio di tendine, ci siamo resi conto che in verità i solai erano totalmente vuoti. La mentalità dominante esige la sicurezza della custodia prima che ci sia qualcosa da custodire. La mentalità dominata, invece, concede più fiducia al prossimo e quasi spera che si trasformi in ladro. Anna lascia la porta aperta e ci tiene a che la prospettiva offerta alla vista suggerisca ordine non privo di creatività e amore per le cose povere e, in definitiva, belle. Se gliele portassero via tutte di botto, per lei sarebbe l'equivalente di un dono. Se gliele portassero via ad una, per lei sarebbe l'equivalente di una ininterrotta lettera d'amore ed io ne morirei di gelosia.